Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Nel pomeriggio mi sento più calmo. La mia paura era infondata. Il nome non mi turba più. Quella febbre è passata. Compagno, dico al morto, ma con pacatezza. Oggi a te, domani a me. Ma se scampo, compagno, voglio combattere contro ciò che ci ha rovinati entrambi, che a te ha tolto la vita e a me la vita anche a me. Te lo prometto, compagno, non dovrà accadere mai più. Il sole è obliquo. Sono intontito dall'esaurimento e dalla fame. Il passato di ieri è come una nebbia. Non spero di uscire di qui. Sonnecchio e mi accorgo che si fa sera. È il crepuscolo. Ora il tempo passa presto. Un'ora di attesa ancora. Se fosse d'estate, 3 ore, ma oggi un'ora appena. A un tratto comincio a tremare che qualcosa sopravvenga e si metta di traverso. Non penso più al morto, mi è diventato affatto indifferente. Di colpo la bramosia di vivere è scattata su e tutti i proponimenti di prima ne sono sommersi. Solo per scongiurar la mala sorte, balbetto ancora macchinalmente, manterrò tutto quello che ti ho promesso, ma già sento che non lo farò. A un tratto mi viene in mente che i miei compagni stessi possono spararmi contro mentre mi avvicino ai reticolati. Non possono sapere. Dovrò gridare appena sarà possibile perché mi intendano e rimanere disteso davanti alla trincea finché non rispondono. La prima stella. Il fronte rimane tranquillo. Respiro e tutto eccitato parlo con me stesso. Attento a non fare sciocchezze, Paul. Calma, Paul. Calma e sei salvo, Paul. Continuo a ripetere il mio nome e mi fa bene, come se un altro mi parlasse e mi desse ordini. L'oscurità cresce. La mia agitazione si calma. Aspetto con prudenza che salgano i primi razzi. Poi striscio fuori dalla buca. Ho dimenticato il morto. Davanti a me si stende la campagna nella prima notte sotto le luci bianche. Prendo di mira una buca e appena il razzo si spegne, vi corro, torno ad orientarmi, ne prendo di mira un'altra, mi curvo e avanti, via, mi avvicino. Finalmente, alla luce di un razzo, vedo nel reticolato qualcosa che si muove ancora appena e poi si irrigidisce. Allora mi stendo a terra. Al razzo successivo guardo di nuovo. Sono i compagni della nostra trincea, sicuramente. Ma io voglio essere prudente finché riconosco i nostri elmi. Allora chiamo. E subito risuona in risposta il mio nome. Paul! Paul! Torno a chiamare. Sono Kat e Albert, usciti con un telo da tenda a cercarmi. Sei ferito! No, no! Ruzzoliamo dentro la trincea. Chiedo da mangiare e inghiotto avidamente. Miller mi dà una sigaretta. In poche parole spiego l'accaduto. Non è cosa nuova. Avventure simili si sono avute spesso. L'unica singolarità nel mio caso è stato quell'attacco notturno. Ma a Kat è capitato in Russia di giacere per ben 2 giorni dietro il fronte nemico prima di potersi aprire la strada verso i nostri. Del tipografo morto non faccio parola, ma la mattina seguente non ne posso più e devo raccontare la cosa a Kat e ad Albert. Entrambi mi tranquillizzano. Non puoi farci nulla. Che altro avresti voluto fare se sei qui per questo? Li ascolto al sicuro, confortato dalla loro vicinanza. Quanta roba insensata sono andato fantasticando in quella buca. Guarda un po' da quella parte, dice Kat. Ai parapetti stanno appoggiati alcuni tiratori scelti. hanno fucile a cannocchiale ed esplorano il settore di fronte. Di quando in quando schiocca un colpo. Udiamo un'esclamazione. In pieno! Hai visto che salto? Il sergente Ulrich si volge tutto fiero e segna il punto. Nell'elenco dei tiri oggi egli sarà in testa con 3 centri regolarmente constatati. Che ne dici? Domanda Kat. Io chino la testa. Se continua di questo passo, questa sera avrà un nastrino di più, osserva Kropp. O diventerà presto sergente maggiore, soggiunge Kat. Ci guardiamo in faccia. Io non lo farei, dico. Però, dice Kat, è bene che tu l'abbia visto fare proprio oggi. Il sergente Ulrich si pianta nuovamente al parapetto. La bocca del suo fucile si sposta cercando il bersaglio. Così non hai da perdere altre parole intorno alla tua avventura, fa Albert. Io stesso non capisco più quello che fui ieri. È stato soltanto, dico io, per aver dovuto rimanere così a lungo in quella compagnia. In fin dei conti la guerra è la guerra. Il fucile di Ulrich schiocca breve e secco. Ci siamo imboscati in un posticino buono. In 8 abbiamo consegna di guardare un villaggio che è stato sgombrato perché troppo colpito dal tiro. Soprattutto dobbiamo badare al magazzino della sussistenza che non è ancora vuoto e il vitto ce lo dobbiamo procurare dalle provviste giacenti. Siamo proprio la gente che ci vuole. Kat, Albert, Müller, Tjaden, Leer, Dethering, tutta la nostra squadra. Purtroppo Haie è morto. Ma siamo ancora fortunati perché altre squadre hanno avuto perdite più gravi. Come ricovero ci scegliamo una cantina dalle pareti di cemento alla quale si accede dall'esterno. Per di più l'ingresso è protetto da un altro muro di cemento. E ora spieghiamo una intensa attività. Ci si offre una buona occasione per distendere una volta tanto non solo le gambe, ma anche, stavo per dire, l'anima. E di tali occasioni conviene profittare, già che la nostra situazione è troppo disperata per far del sentimento. Ciò è possibile soltanto finché le cose non vanno troppo male, ma a noi non rimane altro scampo che d'essere molto positivi, tanto positivi che talvolta ho orrore di me stesso quando per caso un pensiero del passato, dell'anteguerra, si fuorvia nel mio cervello. Ma non vi rimane a lungo. Dobbiamo prendere le cose il più allegramente che c'è possibile e perciò sfruttiamo ogni occasione e passiamo bruscamente, senza transizione, dalla tragedia alla farsa. Non possiamo fare diversamente. Ci precipitiamo da uno stato all'altro. Ora, per esempio, ci applichiamo con tutto l'ardore a creare una vita idilliaca, un idillio a base di mangiate e di dormite. Cominciamo col guarnire la nostra cantina di materassi che trasciniamo fuori da varie case. Anche il sedere di un soldato ha diritto di quando in quando di riposare sul soffice. Soltanto in mezzo il suolo resta libero. Poi ci procuriamo coperte e piumini, deliziose, morbide cose delle quali v'è abbondanza nel villaggio. Albert e io scopriamo un letto smontabile in mogano con un baldacchino di seta turchina e cortine di pizzo. Sudiamo come scimmie nel trasportarlo, ma sarebbe un delitto lasciarsi sfuggire un simile oggetto tanto più che un giorno o l'altro andrebbe in pezzi sotto il tiro. Kat e io facciamo poi una piccola ricognizione nelle case. In breve mettiamo la mano su una dozzina d'uova e circa un chilo di burro abbastanza fresco. Tutto a un tratto in un salotto sentiamo uno schianto. Una stufa di ferro proiettata attraverso la parete passa come un bolide a un metro da noi ed esce dalla parete opposta. Rimangono due grandi fori. È venuta dalla casa di fronte dove una granata ha picchiato in pieno. Questa è fortuna, ghigna Kat, e le ricerche continuano. A un tratto aguzziamo le orecchie e allunghiamo il passo, poi fermi, come stregati. In una piccola stalla ruzzano due porcellini da latte vivi. Ci stropicciamo gli occhi e guardiamo di nuovo. Non c'è che dire, sono ancora lì, li abbranchiamo. Nessun dubbio, sono proprio due autentici porcellini. Vuol dire un pranzo meraviglioso. A 50 passi dal nostro ricovero c'è una casetta che servì alla mensa ufficiale. In cucina si trova un camino gigantesco con due girarrosti, pentole, marmitte e paiuoli. C'è di tutto, persino sotto una tettoia una catasta di legna spaccata come si deve. Il vero paese della cuccagna. Zunächst ist da ein Sturm. Du ziehst nicht damit vorbei. Dann ist da ein Beben, aber auch da bist du nicht involviert. Ich werde heftig von unten an den Wurzeln reißen, bis die obere Welt sich regt. Due di noi sono in giro dal mattino per i campi in cerca di patate, carote e piselli, perché siamo gran signori e ci infischiamo dei legumi in scatola della sussistenza. Vogliamo roba fresca. In dispensa si adagiano già due bei cavolfiori. I porcellini vengono macellati a cura di Kat. Con l'arrosto vogliamo anche le frittelle di patate, ma non si trova la grattugia per le patate, niente paura. In certi coperchi di latta pratichiamo con dei chiodi una quantità di buchi ed ecco le grattugie belle pronte. Tre uomini infilano grossi guanti per non farsi male alle dita, altri due sbucciano le patate e tutto procede speditamente. Kat prende in consegna i porcellini, le carote, i piselli, i cavolfiori. Per questi ultimi confeziona perfino una salsa bianca. Io faccio le frittelle a 4 a 4. In 10 minuti ho imparato a brandire la padella in modo che le frittelle, appena cotte da una parte, volino in aria, si voltino e ricaschino in padella. I porcellini vengono arrostiti intieri. Siamo tutti in cerchio intorno ad essi come intorno ad un altare. Nel frattempo arrivano visite, due radiotelegrafisti che generosamente invitiamo al festino. Se ne stanno in salotto dove c'è un pianoforte. Uno suona, l'altro canta sulle rive del Weser. Canta con sentimento, ma con accento sassone. Tuttavia ci commuove, mentre intorno al camino stiamo preparando tutta quella grazia di Dio. Se non che ci accorgiamo che avremo filo da torcere. I palloni frenati hanno visto il fumo del nostro camino e il tiro comincia. Sono quelle maledette granate dirompenti che fanno un così piccolo foro e spargono le schegge così lontano e così rasente terra. Fischiano sempre più vicine intorno alla nostra casetta, ma non possiamo piantare in asso il pranzo. Quegli animali picchiano sodo, alcune schegge volano sibilando nella finestra della cucina. L'arrosto è pronto, ma cuocere le frittelle diventa un affar serio. Gli scoppi si fanno così fitti che le schegge percuotono ad ogni istante i muri della casa e penetrano dalle finestre. Ogni qualvolta sento avvicinarsi un sibilo, mi metto in ginocchio senza abbandonare padella e frittelle e mi appiatto alla parete sotto la finestra, passata la sventola, continuo a fare il cuoco. I due sassoni hanno smesso di suonare perché una scheggia si è conficcata nel pianoforte. Anche noi ormai siamo a buon punto e organizziamo il ripiegamento. Subito dopo uno scoppio, due uomini partono di corsa con le casseruole delle verdure e li vediamo scomparire nel nostro ricovero a 50 metri di distanza. Un altro scoppio, tutti si appiattano. E poi subito altri due, con due grandi caffettiere piene di eccellente caffè, trottano al ricovero prima che arrivi il colpo successivo. Ed ora è la volta di Kat e Krop col piatto forte, la casseruola grande coi porcellini deliziosamente dorati, un sibilo, un piegamento sulle ginocchia ed eccoli filare come frecce sui 50 metri di terreno scoperto. Io ho da terminare ancora quattro frittelle. Per ben due volte devo accucciarmi al suolo, ma sono quattro frittelle di più ed è il mio piatto preferito. Poi prendo il vassoio col suo carico fragrante, un sibilo, uno schianto e via di galoppo, tenendo con le due mani il vassoio stretto al seno. Sono quasi arrivato quando sento un tremendo fischio in arrivo. Salto come un cerbiatto, svolto dietro il muro di cemento, le schegge vi picchiano contro, ruzzolo giù per la scala, ho i gomiti quasi contusi, ma non ho perduto una sola frittella e non ho rovesciato il vassoio. Il pranzo, cominciato alle 2, dura fino alle 6. Poi, fino alle 6:30, prendiamo il caffè, caffè da ufficiali del magazzino di sussistenza, e fumiamo sigari e sigarette da ufficiali della medesima origine. Alle 6:30 in punto comincia la cena. Alle 10 gettiamo fuori della porta gli ossi di quei disgraziati porcellini. Poi cognac e rum, sempre da quel benemerito magazzino, e ancora lunghi e grossi sigari con le fascette dorate. Thiaden sostiene che non manca più che una cosa, qualche ragazza dei casini per ufficiali. A sera tarda udiamo un miagolio e troviamo sulla soglia una gattina grigia. La facciamo entrare e le diamo da mangiare. A vederla ci si risveglia l'appetito e ci mettiamo a dormire masticando. Ma la notte è cattiva. Abbiamo mangiato troppo di grasso. Il porcellino fresco irrita i visceri. Nel ricovero comincia un andirivieni d'altro genere. Ci si trova sempre in due o tre accoccolati fuori, a brache calate, bestemmiando. Io faccio 9 viaggi. Verso le 4 del mattino tocchiamo il record. 11 uomini, il posto di guardia al completo e i due ospiti sono impegnati fuori. Alcune case incendiate ardono come faci nella notte. Granate rintronano, esplodono, convogli di munizioni passano a tutta velocità. Il nostro magazzino ha una parete diroccata dai colpi. Nonostante la pioggia di schegge, i conducenti vi fanno ressa come uno sciame d'api per rubar pagnotte. Noi li lasciamo fare. Già a dir qualche cosa c'è da guadagnarsi tutt'al più un sacco di legnate. Adottiamo dunque una tattica diversa. Diciamo di essere gli uomini di guardia ed essendo pratici del magazzino offriamo noi stessi le scatole di viveri barattandole con altra roba che a noi manca. Che cosa ci potranno dire? Tra poco tutto sarà spazzato via dalle granate. Per noi poi preleviamo una provvista di cioccolata e lo mangiamo a tavolette intere. Kat sostiene che il cioccolato è indicatissimo contro la diarrea. Quasi 2 settimane se ne vanno così fra mangiare, bere e andare a spasso. Nessuno ci disturba, il villaggio scompare a poco sotto le granate e noi meniamo una vita beata. Finché rimane un pezzettino di magazzino, ci infischiamo di tutto e non abbiamo altro desiderio che di aspettare qui la fine della guerra. Thank you. Theoden è diventato gran signore al punto da fumare i sigari solo a metà, dichiarando sprezzantemente di essere abituato così. Anche Kate è molto su di tono. Le sue prime parole alla mattina sono: «Emil, portatemi caviale e caffè». In genere abbiamo tutti l'aria di gente del gran mondo. Ciascuno tratta l'altro come suo attendente, gli dà del voi e impartisce ordini. «Crop, ho un prurito sotto il piede, toglietemi quel pidocchio». E così dicendo, Lear allunga la gamba al compagno con la mossa di una ballerina. Ma Albert dà di piglio alla gamba e lo trascina così su per la scala. «Theoden!» «Cosa?» «State pur comodo, Theoden, ma ricordatevi che non si dice cosa, ma bensì comandi. Dunque, da capo. Theoden!» Ma Theoden risponde con un certo gesto che non si può descrivere e che per lui è usuale. Dopo altri 8 giorni viene dato l'ordine di partire. La cuccagna è finita. 2 grandi autocarri ci raccolgono. Portano un grosso carico di assi. Tuttavia Albert e io sistemiamo in cima alla catasta il nostro letto a baldacchino con la sua seta azzurra più 2 materassi e 2 coperte di pizzo. Nel letto stesso, vicino alla testata, nascondiamo 2 sacchetti pieni di viveri scelti. Di quando in quando li palpiamo, e le salsicce dure e le salsicce di fegato e le conserve e le scatole di sigari fanno esultare i nostri cuori. Ogni uomo della squadra ha con sé un sacco simile, ma Crop e io abbiamo salvato per di più 2 poltrone di velluto rosso. Le abbiamo collocate tra le sponde del letto e vi sediamo dimenandoci con affettazione come se fossimo in un palchetto di teatro. Sulle nostre teste il panneggio di seta pende a guisa di baldacchino. Abbiamo ciascuno in bocca un lungo sigaro e da quell'altitudine contempliamo il paesaggio. Tra noi due sta una gabbia da pappagallo che abbiamo trovata per la gattina, perché portiamo via anche lei, che vi si adagia davanti alla sua scodelletta di carne e fa le fusa. Gli autocarri rotolano lentamente sulla strada. Noi cantiamo. Dietro a noi le granate sollevano getti di rottami dal povero villaggio ormai deserto. Nicht mehr preis.